Secondo la religione cattolica romana, il purgatorio costituisce uno dei tre regni dell'oltretomba, insieme all'inferno e al paradiso. Da un certo punto di vista è normale e anche giusto che una religione abbia le sue credenze, per questo nell'ambito religioso occorre essere sempre rispettosi gli uni verso gli altri. Ma quando una dottrina diventa una speculazione per fare soldi o imbrogliare il prossimo, si trasforma in un diabolico meccanismo malvagio pilotato dal maligno, cioè dal diavolo. Infatti, per arrivare subito al sodo, la religione cattolica romana non solo rende schiavi i suoi fedeli in vita, ma lo fa anche dopo la morte, tramite il mercato del purgatorio. Per comprendere bene questo mefistofelico piano, occorre leggere ciò che troviamo scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, dai paragrafi 1030 a 1032. Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti, dopo la morte, ad una purificazione, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo. La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione finale degli eletti, che è tutt'altra cosa dal castigo dei dannati. La Chiesa ha formulato la dottrina della fede relativa al purgatorio soprattutto nei concili di Firenze e di Trento. Fin dai primi tempi la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, affinché purificati possano giungere alla visione beatificata di Dio. La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e le opere di penitenza a favore dei defunti. Se si è cattolici e si vive in una cultura impregnata di cattolicesimo, è difficile leggere queste parole con la massima obiettività, così come è difficile far comprendere a un induista che i suoi dei non esistono. Perciò, se si afferma che il purgatorio è una pura invenzione umana, si è tacciati per calunnia e come piantagrane. Tanto, sradicare idee e costumi che si sono assorbiti fin da piccoli è cosa più difficile della luna che scaldi la terra. In effetti solo Dio è in grado di farci comprendere i nostri errori. Arrivando a comprendere che il cattolicesimo spilla denaro ingiustamente al fedele, chi ha una qualche sensibilità di onestà dovrebbe aprire bocca e farsi sentire per impedire l'ingiusta sottrazione di soldi finalizzata a migliorare le condizioni dei morti. I morti sono morti, e non si può più fare nulla per loro. La Bibbia dice, se un albero cade a sud o a nord, nel posto dove esso cade, là rimane. Ecclesiaste 11.3. Quando un sacerdote, alla moglie prosternata per la perdita del marito, o a una mamma per la perdita di un figlio, dichiara che il loro caro si trova in un luogo chiamato purgatorio e che le preghiere unite al denaro sono necessarie per rilasciare l'anima da questo posto di sofferenza e di purificazione, dal punto di vista di Dio, egli esprime una impostura bella e buona. Di conseguenza dovrebbe essere annoverato tra quelli che spillano soldi sotto falsi pretesti. Non solo. Con un a tale menzogna si caricano di dolori persone già sufficientemente affrante, non solo per la perdita, ma anche perché vengono a sapere che il loro caro sta soffrendo ulteriormente. Se più volte sono stati condannate severamente persone che spogliano di soldi altri, con la pretesa di guarirli tramite arti magiche o capacità proprie, e se la società è inorridita da tali persone che per vile denaro vendono menzogne, perché non essere indignati anche di fronte a chi pretende di dare falsamente del benessere a persone morte? E questo purtroppo nell'ambito della fede cristiana. Se fosse un'altra religione, pazienza, ma è proprio nel cattolicesimo che si fa mercato di beni celesti. Così, mentre il cattolicesimo fa pagare le tasse spirituali ai suoi fedeli quando sono in vita, continua a farle pagare ai familiari dei defunti. L'esattore più crudele di questo mondo, morto l'individuo, smette di imporre le tasse, lo scioglie da qualsiasi obbligo. Ma non così con la religione cattolica romana. Anche quando il fedele è ridotto in un mucchio di cenere, continua a esigere il versamento delle tasse. Comprendo che questi possano sembrare ragionamenti di uno in preda al delirio, ma è la parola di Dio ad autorizzare queste conclusioni. Quella stessa parola che si legge nelle chiese cattoliche tutti i giorni. E proprio perché è la parola di Dio a stabilire il giusto e lo sbagliato, è più che opportuno prenderla in esame. È vero che per il cattolicesimo sono il Papa e i Vescovi a stabilire i dogmi, ma se solo questi uomini si facessero un breve esame di coscienza, cesserebbero dal cimentarvisi, perché nel corso della storia meno e, non è una novità, meno papi e vescovi, hanno detto tante cose sbagliate e, a volte, anche delle eresie. Quindi, la pretesa di una infallibilità da parte del cattolicesimo dovrebbe ormai cadere e chi lo rappresenta nelle sue più alte cariche dovrebbe umilmente ascoltare anche chi la pensa diversamente, soprattutto quando a parlare è Dio stesso, in Gesù Cristo, il solo vero capo della Chiesa. Chiedere denaro per delle prestazioni religiose è un gesto ripugnante agli occhi di Dio. Quando Gesù disse agli apostoli «gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» Matteo 10.8, gettò un principio che dovrebbe essere l'anima di chi segue Cristo. Se fosse anche vero che molti uomini vanno in un luogo di attesa per accedere al paradiso, come mai i sacerdoti chiedono del denaro per svolgere funzioni religiose in favore di questi? Come mai per un funerale, un battesimo e altro occorre del denaro? È vero che oggi si dona del denaro ai sacerdoti sotto la veste di offerta, ma si tratta solo di cambiare le parole per definire quello che di fatto è il compenso attribuito al ministro religioso. Quando ero giovane, se non si dava del denaro al sacerdote, non si poteva ottenere un qualsiasi servizio religioso. Ed oggi le cose nella sostanza non sono cambiate, anche se le forme sono diverse. Dal punto di vista di Dio è una vergogna. E perché nel cattolicesimo occorre dare del denaro per i servizi religiosi? Per il semplice motivo che sacerdoti, vescovi e papa compreso non lavorano. E, non lavorando, è evidente che non guadagnano nulla. E se non guadagnano nulla, come possono sostenersi nel mangiare e vestire? E così vengono pagati, questo è il termine giusto, anche se può essere offensivo, per il loro servizio religioso. Del resto, così dice il Catechismo della Religione Cattolica Romana, il popolo cristiano deve concorrere al sostentamento dei ministri della Chiesa. 2122. Come se ciò non bastasse, la domenica raccolgono ulteriore denaro dai fedeli. Raccogliere del denaro dai fedeli non è sbagliato in sé. A essere sbagliata è la motivazione. Un gruppo religioso raccoglie denaro per sostenere le spese per un locale, per i poveri e per tante altre ragioni. Ma se questo gruppo segue gli ordini di Cristo Gesù, allora non raccoglierà denaro per chi amministra funzioni religiose. Questo è spregevole agli occhi di Dio e trasforma la religione cattolica in un diabolico esattore. Parole forti che potrebbero essere prese come un'offesa. Quando si parla di fede religiosa, è tuttavia necessario non essere permalosi, perché la pretesa di ogni religione è di essere quella giusta, sottintendendo così, per forza di cose, che le altre sono nell'errore. È inutile sostenere che tutte le religioni portano nella stessa direzione, affermazione in virtù della quale è nato il movimento ecumenico. Per quanto sia vero che verrà il momento nel quale tutte le religioni saranno riunite sotto un solo capo religioso, di fatto ogni persona religiosa porterà, comunque nel proprio cuore, la forte convinzione di essere l'unica a possedere il giusto credo. Non a caso ci sono degli accordi e unioni che provengono dal maligno, il quale è di gran lunga più abile nell'adempiere al proprio ruolo di angelo di luce che acceca le genti, impedendo loro di vedere la verità. In tutte le epoche l'uomo ha fatto delle religioni un commercio, e da un certo punto di vista non dovremmo stupirci, perché Cristo Gesù presenta il denaro come un'autorità avente il potere di opporsi a Dio. Gesù disse che non si può servire a due padroni, o si ama l'uno o si ama l'altro. Proprio perché il denaro ha la potenza di rendere schiavo l'uomo, quando mandò i 12 apostoli a presentare il Vangelo, Gesù ordinò: guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non fate provvista di oro, né di argento, né di denaro nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Matteo 10.8.10. L'ordine di dare gratuitamente come gratuitamente si è ricevuto dovrebbe essere preso sul serio come ogni altro comandamento. E il cattolicesimo, avendo sempre avuto l'obiettivo di essere una religione missionaria, dovrebbe dimostrare al mondo la propria serietà nell'esercitare ogni funzione religiosa in modo gratuito. Nella stessa Didache, ritenuta il documento e catechismo giudeo-cristiano più antico, è scritto che l'apostolo o il profeta che chiede denaro è un falso profeta. Perché non ascoltare questa antica valutazione? Perché non ascoltare anche lo stesso catechismo della religione cattolica romana quando afferma che la simonia consiste nell'acquisto o nella vendita delle realtà spirituali? 2121. Non vende forse realtà spirituali il cattolicesimo? Inoltre, come è risaputo, il Vaticano è lo Stato più ricco del mondo. Anziché chiedere elemosine e altro, dovrebbe proprio per questo non fare provvista né di oro né di argento né di nessun'altra ricchezza. Questo fatto indurrebbe anche i sacerdoti a sposarsi perché, meno come pochissimi sanno, meno il divieto rivolto ai sacerdoti di sposarsi è proprio dovuto principalmente ad una questione di denaro. Infatti, se un sacerdote avesse moglie e figli, alla sua morte, a chi passerebbe l'eredità o i soldi da lui accumulati? Sarebbe una questione veramente spinosa, per cui il cattolicesimo tollera piuttosto che un sacerdote abbia relazioni sessuali illecite, fornicazione e sodomia, piuttosto di concedergli di sposarsi. Certo, non si vuole dire che il cattolicesimo romano sia a favore di ogni espressione sessuale sbagliata commessa dai sacerdoti. Questo è un errore, ma occorre anche essere obiettivi davanti ai fatti più volte evidenziati dalla cronaca e manifestanti il mancato intervento tempestivo, o addirittura l'assenza di intromissione dei prelati per fermare le relazioni sessuali di sacerdoti. L'importante è che i sacerdoti non siano sposati. Il resto non è poi così tassativo. Se noi fossimo coscienti della potenza che il denaro ha sulla nostra psiche e sulla nostra esistenza, lo tratteremmo come una brace ardente, non cercandone il possesso. Ma soprattutto il cattolicesimo, che pretende di essere seguace di Cristo, quel Cristo che visse e morì da povero, non ne farebbe un commercio nelle cose sacre. Solo così, forse, sarebbe in grado di comprendere i vari errori dottrinali, incluso il purgatorio. Marzo 2009, Ellero.